D'altro lato, la voglia di passato si esprime con il rifiorire delle panetterie, con il ritorno delle enoteche. La marcia in più è data sempre dalla ristorazione. Lo conferma, passando da Milano a Ravenna, Coppa Adriatica, che ha appena inaugurato De Gusto, colazione, pranzo e aperitivo, con una proposta di prodotti a marchio Coop della linea Fior Fiore. Anche qui Farinetti Doces, che proprio sul mix ristorazione e retail ha costruito Italy. Infine, una segnalazione per gli amanti dei trend, un nuovo protagonista all'orizzonte del mondo dell'offerta commerciale. Il bartender, non più confinato a lounge aperitivi, ma nuovo protagonista del successo dei ristoranti. Così anche Emporio è il suo bartender stellato, similmente a Dry Milano, Pizza e Cocktail, nato dallo chef stellato Andrea Berton, che ha reclutato Guglielmo Meriello, un vero talento della mixability. In sintesi, voglia di antico e di conosciuto, ma con un pizzico di allegria in più. Gli italiani, anche quando fanno la spesa o scelgono un ristorante, cercano sicurezza e novità. Ricordate Tom Cruise che corre in una New York deserta sulle note dei Radiohead nella scena iniziale di Vanilla Sky? Una bella panoramica di Times Square in particolare. Le immagini le trovate come sempre sulla nostra pagina Facebook. Ci servono ad introdurre la rivoluzione del più classico dei giochi da tavolo, Monopoly. Nella nuova versione diventa Monopoly Empire, tabellone con grandi pubblicità sui grattacieli e giocatori che acquistano e vendono 22 dei brand più famosi al mondo, da Coca-Cola a eBay, passando per Samsung, Spotify e Ducati, unica marca italiana presente. Una rivoluzione sotto il segno del marketing, che ci racconta anche qualche cosa sulla pervasività dei brand nell'immaginario collettivo. Ne abbiamo parlato con Roger Botti, direttore creativo di Robiland Associati. È molto attuale in un momento in cui le marche devono cercare di essere vicine alla gente. È un po' il processo che porta i power brand verso l'obiettivo di diventare tutti dei love brand. La gente ama le marche, ma non le vuole subire, quindi cerca l'interazione, è appagata dall'interazione. E cosa c'è di meglio che una marca o le marche si mettano in gioco facendo giocare la gente con i brand? È un modo per instaurare una relazione diretta e amichevole. Le marche italiane che potrebbero ambire a essere in questa selezione sono molte di più. La desiderabilità dei brand italiani c'è tutta ed è internazionale, a valore ce ne potrebbero stare molti altri. Mi piacerebbe immaginare un Monopoly con tutte marche italiane. Essere e avere. Desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Deserto, lo scenario della notizia che fa da spunto alla tendenza della settimana. Focus sui trend. Parliamo dell'installazione che porta la firma di Miuccia Prada e Damien Hirst a Doha, in Qatar. Da un lato l'artista famoso per gli animali in formaldeide ha reinterpretato tra le dune il suo leggendario Pharmacy Restaurant, aperto a Londra nel 1998, dall'altro la signora della moda ha allestito la replica di uno dei suoi negozi in versione tenda nel deserto, appunto. Ne parliamo con Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Buon pomeriggio, Valentina. Buon pomeriggio a voi, buongiorno. Nel mondo della moda è l'evento del mese. Questa notizia ci parla anche di una contaminazione sempre più forte tra arte, moda e retail. Valentina, è così? Ma certamente non è un fenomeno nuovissimo, certamente questa operazione non è un caso che porti la firma di Miuccia Prada, che in qualche modo è stata pioniera in questo senso, nel senso che ha lavorato con il mondo dell'arte non semplicemente attraverso collaborazioni sulla linea, sulla sua moda, ma attraverso un approccio sicuramente più autoriale, cioè supportando l'arte in una maniera molto importante attraverso la fondazione, attraverso altri progetti. E ricordo a questo proposito anche il precedente progetto di Prada Marfa, che è un'installazione invece sempre nel deserto negli Stati Uniti, però permanente, fatta da due artisti e che Miuccia Prada in qualche modo ha supportato. È un tema molto forte in questo momento nella moda, ma non solo nella moda. Direi che il tema delle collaborazioni, contaminazioni anche di genere tra arte, moda, retail, è oggi uno dei temi più interessanti proprio nella creatività. Nella moda, ricordiamo, negli ultimi tempi anche una contaminazione interessante con il mondo dell'architettura, che sta in qualche modo influenzando fortemente anche le nuove strutture formali e anche, come dire, sta ridisegnando i contorni del corpo, e questo è un altro tema secondo noi molto rilevante in questo momento. Ci sono stilisti, ma penso a Vibskov, ce ne sono moltissimi che si possono citare, che non amano definirsi stilisti, ma artisti del corpo, e questo credo che sia un tema molto nuovo, molto interessante. Prada Marfa, questa installazione permanente nel deserto del Texas che riproduce una boutique del marchio, è diventata una meta del turismo alternativo. La moda riesce anche a giocare in qualche modo con i propri totem, i simboli del proprio immaginario, è diventata più aperta rispetto a un tempo? È diventata senz'altro più aperta, anche perché il settore moda, che per anni è stato un faro nell'immaginario collettivo per le persone, oggi in qualche modo ha perso quel suo ruolo di settore principe, e quindi negli ultimi anni si è necessariamente dovuta aprire ad altri ambiti di immaginario, altri settori, proprio per riavvicinare le persone, perché noi sappiamo che se una volta si andava, come dire, nei templi della moda, semplicemente il turismo, no, dello shopping, oggi tutto questo, se non è arricchito culturalmente, se non è arricchito di altri stimoli, si è molto svuotato. Il retail della moda ha assoluto bisogno di essere movimentato attraverso altri stimoli che siano più, in qualche modo, passatemi il termine, alti, perché sempre di più le persone non si accontentano, come dire, di guardare alla marca come una divinità. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Italian Factor. Questo è il momento della sfida che abbiamo lanciato ai brand, alle aziende, alle start-up e ai consumatori, anche per riconoscere e promuovere l'Italian Factor, un percorso che passa anche attraverso le testimonianze dei casi che fanno scuola, grazie all'analisi della nostra guida. Francesco Morace, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Stiamo analizzando le virtù in base alle quali riconoscere l'Italian Factor. Sabato scorso abbiamo parlato di intelligenza. Francesco, oggi? Oggi parliamo di famiglia, in particolare la familiarità. L'Italia è il paese al mondo in cui i membri di una famiglia trascorrono più tempo insieme, no? Questo può essere considerato anche un grande punto, diciamo, di partenza per una nuova visione anche di un'Italia. Nel senso che invece di avere semplicemente il nepotismo o il familismo amorale, che sono tutte espressioni di grandi sociologi che hanno studiato l'Italia, bisognerebbe avere più complicità. Tra nonni e nipoti. Un dato interessante degli ultimi anni, anche degli anni di crisi, è che i nonni trascorrono sempre più tempo con i nipoti. Questo vuol dire che, ad esempio, i nipoti aiutano i nonni ad aprire il loro profilo Facebook e li introducono nel mondo delle nuove tecnologie, ma dall'altra parte i nonni raccontano ai nipoti le loro storie, le storie del passato, e trasferiscono questa memoria. Ecco, questa è una cosa che è molto importante per l'identità del nostro paese. paese. Questo a livello di prodotto si può ad esempio trasformare in prodotti ponte che possano essere utili per più generazioni, che possano mettere in contatto più generazioni tra loro? Non c'è dubbio, perché la nostra natura di italiani non è segmentante, cioè il marketing che arriva comunque da una visione americana ha lavorato per decenni su questa idea della segmentazione generazionale, cioè ogni generazione il proprio prodotto, la propria brand. In Italia questo non ha mai funzionato. Pensate a un grande caso che noi tutti conosciamo, la Nutella di Ferrero, ma piuttosto che la Vespa, cioè tutti i prodotti icona dell'italianità. Sono prodotti che non solo non raggiungono una sola generazione, ma che addirittura vengono trasferiti in termini di passione e di gusto da una generazione all'altra. Quindi noi siamo gli specialisti dei prodotti ponte. Familiarità, Francesco, spesso questa dimensione familiare, penso alle piccole e medie imprese italiane, viene citata tra gli elementi negativi, perché poi si traduce magari in provincialismo, in mancanza di innovazione o mancanza di visione strategica. Ecco, in questo modo invece la familiarità diventa uno degli elementi forti su cui rilanciare il Made in Italy. È proprio così, vedremo che nei nostri approfondimenti dell'italianità c'è sempre un lato oscuro, quindi è vero che la dimensione familiare, l'azienda familiare può in effetti avere questo problema che è di conservare e di non dare alle giovani generazioni di imprenditori sufficiente responsabilità, però dipende dal ruolo che queste giovani generazioni possono avere in azienda. Ad esempio, se hanno il ruolo di portare dentro le nuove tecnologie o di affrontare la globalizzazione, quindi conoscenza della lingua, conoscenza di altre culture, può essere assolutamente un punto di forza. Francesco Morace, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Potete riascoltare e scaricare questa puntata come sempre, come le altre, dal nostro sito radio24.it. Immagini, link e contributi integrativi sono sulla nostra pagina Facebook. Grazie a Giorgia Wiseman per le interviste della prima parte, grazie a Fabio Cantadori in regia. Buon proseguimento d'ascolto da Maria Luisa Pezzali. A sabato prossimo.